Ed eccoci come ogni lunedì ad Entropia Massima. Siamo su Radio Onda Rossa e salutiamo tutti e tutte coloro che sono all'ascolto, in particolare chi ci segue dal carcere. Oggi puntata sulle tecnologie, continuiamo il discorso sull'intelligenza artificiale. E abbiamo anche un ospite che salutiamo, c'è Carlo con noi stasera. Ehi, buonasera a tutti, buonasera. E allora, eccoci in diretta con Entropia Massima, come una volta su quattro facciamo questo ciclo sull'intelligenza artificiale e quindi stiamo parlando di, insomma, dei problemi connessi con i cosiddetti big data, cioè il fatto che ci vengono offerti dei servizi che riteniamo molto comodi, molto, molto utili o molto piacevoli da utilizzare, e questo fa sì che stiamo tanto tempo connessi con questi servizi e produciamo una grossa mole di dati. Ovviamente chi ce li mette a disposizione ha tutto l'interesse che noi facciamo esattamente questa cosa. E queste mole di dati vengono analizzate, ormai vengono analizzate da delle macchine, da degli algoritmi, spesso anche di intelligenza artificiale, cioè che simulano anche, diciamo per via sintetica, quella che potrebbe essere una via di ragionamento che farebbe un essere umano, perché sono talmente tanti questi dati che non si possono gestire, diciamo non ci sono abbastanza uomini e donne per gestire questi dati, quindi c'è bisogno di utilizzare delle macchine che fanno dei calcoli veloci e quindi riescono a tirar fuori delle informazioni molto utili a quelli che ci fanno usare questi servizi online, che non hanno esattamente delle buone intenzioni nei nostri confronti. Naturalmente ci siamo tante volte preoccupati dell'incubo orwelliano da Grande Fratello e quindi lo introduciamo anche questa volta, cercando di sostanziarlo anche con degli esempi molto pratici. Abbiamo visto per esempio la scorsa volta cosa può succedere quando c'è uno stato tecnologicamente avanzatissimo come Israele, che è al top della tecnologia in questo campo, che si trova ad avere nel suo territorio 1,5 milioni di palestinesi, diciamo reclusi in una zona particolare di questo territorio e controllati in maniera fortissima. Come? Attraverso queste tecnologie. Quindi raccontavamo un episodio spassoso che riprendiamo: un lavoratore palestinese, che un guidatore di bulldozer, pubblica su Facebook, sul suo profilo Facebook, una foto con lui sul bulldozer con scritto buongiorno in arabo. L'algoritmo sbaglia l'interpretazione dall'arabo e pensa che sia invece li sdraieremo tutti, e da lì parte una velocissima azione di intelligence israeliana che porta ad arrestare quest'uomo che nulla aveva fatto ed è rimasto poi in carcere a lungo fino a che non si chiarì l'episodio. Questo però, al netto diciamo della particolarità della situazione, ci fa capire quali sono le tecnologie che questi signori, di cui questi signori dispongono, e che cosa possono fare concretamente alle nostre vite. Quindi quello palestinese chiaramente è un caso estremo, ma noi rischiamo di entrare rischiamo che quello sia un laboratorio che poi arrivi anche da noi. Allora, tutti questi dati quindi vengono centralizzati e per una dittatura questo è favoloso, cioè la possibilità di poter disporre di tantissimi dati in modo centralizzato. Per anni si è provato a fare questo e non ci si è riusciti, no? Pensiamo alle monarchie francesi del XVIII secolo, pensiamo anche, se vogliamo, a esempi dello scorso secolo in cui si tentava di accentrare statalmente un potere, no? Ed è il caso per esempio dei Soviet, e si è visto quanto è difficile gestire il potere in maniera centralizzata. Viceversa, altri modelli, come quello diciamo capitalistico americano, poi nel tempo storicamente hanno prevalso per varie ragioni, forse anche perché invece hanno un modo distribuito di gestire le informazioni, tutte le varie informazioni, e quindi c'è il discorso che appunto la democrazia, la cosiddetta democrazia, si articola in tutta una serie di passaggi che aiutano a distribuire le informazioni e quindi diciamo allontanerebbero forse il problema di una dittatura centralizzata, che invece adesso è possibile, è di nuovo possibile, perché ci sono dei signori che stanno accentrando questi dati e che potrebbero sicuramente qualcosa ci dovranno fare con questi dati. Una delle cose che ci stanno facendo è quella di capire come ci comportiamo, quali sono le nostre preferenze, come ci muoviamo, anche influire sulle cose che noi pensiamo. Quindi pensiamo per esempio a quello che è successo con i vari casi in cui sono emersi dei risultati elettorali imprevisti, no? Si cita sempre le elezioni di Donald Trump piuttosto che il sì alla Brexit, no? Ecco, in queste circostanze si pensa, e ci sono anche delle evidenze, che ci siano state delle azioni di forgiamento del pensiero degli elettori che hanno portato, no, a quella situazione. Quindi ecco, pensate quanto sono importanti questi dati. Noi rischiamo come esseri umani di diventare un po' come delle mucche da latte, quindi abbiamo i nostri noi produciamo dei dati per conto delle macchine che poi li utilizzano per capire tante cose, per dominarci a tutti i livelli. Quindi noi produciamo dei dati e questa è la nostra funzione, e mano a mano le funzioni intellettuali diciamo relative all'intelligenza vengono trasferite verso le macchine, noi quindi ne veniamo gradualmente privati, rischiamo forse di diventare nel tempo, di degradarci proprio a livello di individuo, di essere di animale proprio, un po' come è successo alle mucche, che oggi sono degli animali asserviti all'esigenza di fornire il latte dopo ovviamente secoli di ingegneria genetica che è stata fatta su di loro, no? Di selezione genetica che è stata fatta su di loro, quindi oggi sono degli animali estremamente più poveri di come erano un tempo, e noi rischiamo la stessa cosa, cioè di trasferire tutto le funzioni che sono proprie del nostro ingegno verso le macchine, che sono più efficienti nello svolgere questi compiti, sono più efficienti di noi, e quindi noi cediamo anche potere alle macchine e potremmo rischiare di non essere più così importanti. Ora pensate a un mondo in cui le differenze economiche non sono mai state nella storia così grandi tra il più ricco e il più povero, così come nella storia non è mai successo che nelle mani di poche persone si concentrassero ricchezze così grandi, no? Addirittura la metà delle ricchezze del mondo possedute solamente da un numero di alcune decine, adesso non ricordo il dato, tra i primi più ricchi. Quindi mai nella storia è successa una cosa del genere. In più le macchine stanno imprimendo questo tipo di accelerazione ai processi che servono per mantenere insieme il sistema. A un certo punto questo ha un riflesso sul lavoro, eppure questo l'abbiamo visto, quindi c'è anche l'espulsione dell'essere umano dal lavoro. A un certo punto l'unico motivo per tenere in vita questi esseri è perché producono dati, non ci sarebbe, no? Immaginando in futuro se quella tendenza va avanti così e sta crescendo, e non solo sta crescendo ma sta crescendo in modo esponenziale, potremmo arrivare a un futuro in cui diventiamo veramente inutili, no? E quindi questi sono gli incubi di cui abbiamo parlato in queste trasmissioni. Oggi vogliamo, insieme a Carlo, cercare anche di fare un po' di ordine all'interno proprio delle definizioni di intelligenza e inserire un concetto che non è parte, attualmente non è parte e non lo sarà ancora a lungo, dell'istruzione che diamo alle macchine. Il concetto di coscienza, cioè il concetto di coscienza è estraneo, per adesso almeno, è estraneo alle macchine. Quindi cerchiamo di capire, no, che cos'è l'intelligenza, cos'è la coscienza, in che relazione sono fra di loro. Eccomi qua. Ci sono? Mi sentite? Sono attaccato, eh? Sono attaccato al microfono, pronto, pronto, sa, prova. No, non ci sei. Allora, come sempre, sì, dai, vieni. Oh, è incredibile, ogni volta che vieni te, caro, succede questa cosa, ma forse in realtà il motivo è perché mi va di stare vicino a te, quindi ci mettiamo vicini. Questo no, questo qui. Allora mi metto qua, perché vuoi stare in piedi tu. Ci sono? Sì. Così, eh? Allora, dunque, intanto volevo partire dalle mucche. No, nel senso che la mucca in natura non esiste. È un, come anche la pecora, quelle che voi vedete da lana o le mucche da latte, che sono molto docili, infatti si fanno mungere molto tranquillamente, poi sono, appunto, come dicevi tu, selezionate nel corso di migliaia di anni, perché la domesticazione della mucca e della pecora risale a una decina di migliaia di anni fa. E la mucca deriva dall'uro, che è un animale estinto, e la pecora deriva da una capra selvatica, forse mufloni, tipo forse come il muflone o qualcosa di simile. E sono animali, così come il lupo, il cane deriva dalla domesticazione del lupo, e che a un certo punto si sono separati dai loro progenitori naturali per diventare un prodotto della nostra domesticazione, così come tutto quello che ci circonda. Per esempio i cibi che coltiviamo sono profondamente diversi da quello che si trovava in natura migliaia di anni fa, prima della domesticazione. Perché dico questo? Perché qui si parla di intelligenza e quindi quello che noi abbiamo come specie Homo sapiens, abbiamo determinato su queste forme di vita, per esempio la mucca, come è stato detto prima, è il frutto di una nostra particolare capacità intellettiva che ci rende molto diversi da tutte le altre forme di vita che la Terra ha conosciuto da miliardi di anni, perché la vita ha miliardi di anni sul pianeta. Una vita che ha vissuto... Cioè, tu quindi intendi dire che, diversamente vita... dagli altri animali, noi forgiamo le vite... Noi modifichiamo le altre forme di vita perché abbiamo un'intelligenza diversa dalle altre forme di vita, che si è trasformata. È la stessa intelligenza che però nel nostro caso, che è unico nell'universo, per quello che noi conosciamo attualmente dell'universo, noi lo conosciamo molto meglio di Galilei, di Newton e perfino di Einstein, che muore nel 1955 e che è comunque stato importantissimo per aver definito che cos'è l'universo in una chiave di riferimento che è fuori dal nostro modo di parametrarci rispetto allo spazio-tempo, cioè la teoria della relatività. Però grazie, appunto, anche proprio alla teoria della relatività, che contiene al suo interno il limite della velocità della luce, abbiamo potuto modificare il nostro modo di rapportarci agli spazi infiniti. Quindi noi possiamo dire che non ci sono altre forme di vita, perché nel raggio attuale delle conoscenze nostre e di come, appunto, vediamo essere il mondo, l'universo intorno a noi, non ci sono altre forme di vita che con cui possiamo interagire in qualche misura. Probabilmente nella nostra visione dei radiotelescopi ci sono forme come batteri o microbi, però, appunto, stiamo parlando di qualcosa di molto diverso che era all'origine sulla Terra. Qui, grazie a una serie di circostanze casuali, si sono create delle condizioni all'interno di questo sistema solare per cui il posto dove è la Terra, che è uno dei pianeti del sistema solare, ha permesso 4 miliardi di anni fa a questo nostro pianeta di diventare come lo conosciamo oggi. All'interno di questo lungo processo evolutivo la vita è nata dall'acqua, sintetizzo ovviamente, all'interno dell'acqua si sono formate delle forme di vita che si sono adattate, e questo adattamento ha prodotto una serie di trasformazioni. Uno dei momenti che tutti ricorderete quando si studia a scuola si chiama esplosione del Cambriano, che diciamo ci fa trovare oggi a un certo punto nelle stratificazioni geologiche tutta una serie di ammoniti, di piccoli, di reperti che sono milioni e che ci dicono che c'è stato proprio un'esplosione di forma di vita, di un adattamento di alcune forme di vita. E poi c'è stata proprio, appunto, 500 milioni di anni fa la prima grande estinzione di massa, che la Terra ha ben tollerato come pianeta, perché è, diciamo, capace di rigenerarsi e di ridar vita ad altre forme di vita. Di queste estinzioni di massa ne ha subite il nostro pianeta 5. L'ultima la conoscete tutti perché è quella dei dinosauri, degli ultimi dinosauri del Giurassico, quindi quella del film. Del film, i dinosauri del film Jurassic Park si sono in realtà estinti, ma poi lì si immagina che attraverso la clonazione e ritrovandolo dentro l'ambra certe, il DNA di alcuni animali può essere ricreato. Quello è un libro di Crichton che peraltro è di tanti tanti anni fa e che oggi, diciamo, è scientificamente ridimensionato. All'epoca però appunto la clonazione era ritenuta molto più al portata di mano nel modo in cui appunto immaginiamo noi. Ecco, uno dei temi della clonazione, come dicemmo anche un'altra volta che io venni qui con voi, è proprio legato al fatto, per esempio, della clonazione umana, perché un conto è clonare la pecora o una mucca. Sono stati clonati la pecora perché è la prima, la famosa Dolly, ma si possono clonare tanti altri animali. Quindi comunque, ecco, la cifra importante è questa tendenza dell'uomo a trasformare, a creare delle nuove vite. In qualche modo anche nell'ambito dell'intelligenza artificiale si procede a cambiare forse delle forme di vita che noi già... Questo è cambiare delle forme di per vita per quanto riguarda organiche. Invece con l'intelligenza artificiale per la prima volta invece si va a creare una vita da... Partendo da una cosa di inorganico. Ti voglio dire, però forse con lo stesso approccio, cioè con quello. No, ti voglio dire prima cos'è l'intelligenza. Ecco, dai. E voglio dire, non lo possiamo dire nella forma più complessa possibile perché ci vogliono ore e ore, forse giorni di discussione. Brevemente, tutte queste forme di vita che ho detto e che abbiamo visto dalle primissime forme degli organismi monocellulari fino all'evoluzione, i dinosauri, quelli che tutti conosciamo, sono vissuti 200 milioni di anni. Noi come specie, la specie Homo sapiens, abbiamo circa 250.000, 270.000 anni. Come processo di ominazione, quindi quando ci siamo separati dalle scimmie, circa 6 milioni di anni. Quindi 200 milioni di anni è un numero incredibile. Che cosa hanno fatto questi sauri che sono cominciati ad apparire piccolini e che hanno subito anche un'altra estinzione prima di quella del Giurassico e si sono adattati, così come tutte le altre forme di vita, le piante e tutto il resto. Quindi la natura ci dice che, osservando l'evoluzione, ciascuna forma di vita esprime il massimo dell'intelligenza possibile in quello che è la sua forma, sia un filo d'erba che un T-Rex, per rimanere all'esempio. Quindi la felce, che è un... Quindi questa tendenza all'adattamento, l'adattamento che tu hai descritto, è intelligenza. Quando noi troviamo un dinosauro, quello è il massimo, è la massima espressione dell'intelligenza del T-Rex, che è perfetta, è una e che si adatta all'ambiente e funziona. Se lo troviamo che funziona insieme a tutti gli altri animali e all'ambiente, significa, ciascuno di questi è la massima espressione dell'intelligenza. A un certo punto questa estinzione genera la fuoriuscita dei mammiferi che si affermano nei 60 milioni seguenti a questa estinzione, dentro ai quali questo grande mutamento della vita sul pianeta Terra, a un certo punto si producono determinate forme di vita molto molto molto complesse, perché c'è una stabilità che produce tra i mammiferi quelli che sono noi, i primati. È una divisione molto complessa la filogenesi, ma insomma circa 10 milioni di anni fa si appaiono quelli che sono le scimmie da cui noi anche discendiamo. Ci siamo separati dagli attuali discendenti, che sono i bonobo, i gorilla, gli oranghi, i scimpanzé, che sono cugini dei bonobo e che sono i più vicini a noi, in particolare il bonobo, con un 98,8% di DNA in comune. Però noi, da, non dobbiamo farci ingannare, siamo separati da 6 milioni di anni di evoluzione, siamo proprio un'altra, un altro ramo. Tra di noi, in questi 6 milioni di anni, abbiamo avuto una serie di trasformazioni che hanno portato dalle australopiticine a quello che siamo, in un processo che si dice a cespuglio, quindi non c'è quell'immagine che tutti voi vedete lineare in cui si vede una scimmiettina che cammina sulle zampe e poi piano piano 4-5 si alza e c'è l'umano. Quella non è vera, non c'è linearità, quella è un'idea falsa dello sviluppo, dell'evoluzione. Quello che è successo è molto più complesso, non ci interessa entrare nel dettaglio, ma cos'è che è particolare? Che il primo dato della nostra intelligenza è il bipedismo. Nella natura bipede, che è la discesa dagli alberi 4 milioni di anni fa, E è successa una cosa così casuale, ma a noi appare incredibile. Le mani sono state liberate. E quindi cos'è la nostra intelligenza? Sostanzialmente la novità assoluta è il rapporto mente-mano, proprio mano. E questa macchina perfetta che è le nostre due mani, con l'ambipedismo, ha favorito il contatto con il mondo. Questo sviluppo della nostra intelligenza l'ha resa molto molto particolare, una intelligenza tale che molto lentamente, perché ci sono avuti 4 milioni di anni e con tanti, diciamo, tentativi, ma non sono tentativi, perché io vorrei che si capisse che non c'è una direzione, quello che accadeva in questo passato che noi abbiamo ricostruito non aveva un fine che siamo noi casualmente oggi ci siamo e ricostruiamo a ritroso quello che siamo, ma è del tutto casuale che questa libertà che abbiamo avuto di camminare, quindi di liberare le mani, poi in una serie di tentativi ha prodotto la nostra intelligenza. E secondo me è molto bello quello che dici, perché richiama questi due concetti, mente e mano, no? Queste sono due proprio, no? Le caratteristiche, diciamo, connessione è fondamentale. E tra di loro ci dici, perché addirittura il cervello è paralizzato, diciamo. E se tu pensi a quello che l'uomo ha tentato di fare con la tecnologia, in qualche modo all'inizio le macchine erano semplicemente oggetti che potevano fare delle cose un po' come le nostre mani e meglio, e quindi in maniera più efficiente, più forte, veloce, generalmente più veloce o più forte oppure diciamo con più forza trainante, no? Le leve, esatto. E dopo invece adesso sembrerebbe aver cominciato a pensare anche, ma posso io creare anche un'intelligenza da associare a questa mano meccanica, no? Cioè, le due cose, no? Sembrerebbero oggi arrivate a, diciamo, a un punto importante, nuovo e potenzialmente deflagrante. Questa cosa è una cosa che noi, diciamo, ci sembra molto nuova, ma il germe di questo che stai dicendo tu, cioè del replicarci in un'altra forma, non migliore, ma più potente in termini di energetici proprio, cioè consuma meno e lavora di più, fatica di più e muove di più, quindi è l'automa. Nel mito di Efesto, che è il fabbro degli dei, lui fabbrica per esempio lo scudo, le armi di Achille, che sono insomma delle armi particolari, perché Achille è un semidio, è una macchina da guerra potentissima, mitica. Efesto si fa aiutare da delle donne, peraltro, robot, che si attivano attraverso un sistema che è il cuore, sostanzialmente. Sono fortissime, sono di metallo d'oro e sono le sue ancelle. Sono dei robot, ovviamente. Robot che però sono animati da un mito. Però quel mito, l'energia e ciò che c'è dentro a questi robot, questo è un mito di 3000 anni fa, rimane nella cultura, certo, occidentale, e passa nei secoli e prende delle forme che noi poi a un certo punto, facendo un grande balzo in avanti dagli automi delle macchine ellenistiche, che sono, diciamo, pezzi di automazione, vogliamo ricordarlo, nella cultura ellenistica, quindi nel periodo poco precedente alla distruzione che avviene in quella che è la zona di Alessandria, con la diffusione del cristianesimo, c'era una cultura in cui la conoscenza della matematica, della geometria, delle tecnologie era avanzatissima, e si conosceva per esempio la macchina a vapore, non ovviamente applicata ancora come avverrà molto dopo, ma si conosceva, così come tanti altri. Abbiamo il meccanismo di Antikythera, che è un meccanismo che negli anni dei Peter Colosimo degli anni 70, come tante altre di queste cose, veniva spacciato così nei racconti come un prodotto delle tecnologie aliene. In realtà non c'è nulla, diciamo, di misterioso. Sono conoscenze molto profonde, perché noi abbiamo molto sottovalutato quel periodo, che aveva raggiunto una grande abilità nel fare quello che dici tu, cioè nel trovare delle soluzioni a delle macchine che facessero le cose al posto nostro. Come dicevamo prima, chi fa le piramidi avrebbe voluto volentieri muovere quei grandi massi più rapidamente di quanto non facessero 40-50 lavoratori a mano, perché pesavano tonnellate. E questo piano piano si avrà, perché le macchine, per esempio, da costruzione dei romani sono avanzatissime, e lo vediamo, i ponti romani sono ancora in piedi, alcuni invece di cemento recentemente crollano perché per dire, e quelli hanno 2000 anni. Lì dentro c'è la malta, che è un'invenzione romana, fatta con la pozzolana, che è una, si prende a pozzuoli perché è leggera e perfetta, e questa conoscenza ha dato vita, questa è l'intelligenza del, e con le mani e questo fare le cose e produrre macchine. Saltando nel Rinascimento, Leonardo, che vuole fare anche lui un automa, e lo disegna solo perché non ha idea di come si possa fare, però lo vede, così come vede il volo e non, nient'altro che ricordandosi di Icaro, che si fa delle ali di piume con la cera, poi va vicino al sole e si schianta, il padre si salva, e ci prova anche Leonardo, lui proprio da, anche lui da quel mito lui lo fa, lui lo prova, fa. Si mette a vedere come volano gli uccelli, riproduce il movimento questo, no? E lo studia e poi fa queste ali di legno, non ha la fibra di carbonio, quindi pesa tantissimo, e il povero malcapitato che chiama a fare l'esperimento si schianta, poverino, da una rupe, facendosi molto male, non sappiamo se è morto o se si è rotto tante ossa, perché questo deltaplano sostanzialmente non poteva funzionare, ma perché lui ignorava alcune cose, tra cui la portanza. Ma questa cosa poi passa ancora fino al 700, quando l'automa diventa di grande fama, e addirittura abbiamo uno che è più, tra i più famosi, che è il turco scacchista. In realtà c'era un trucco, c'era un omino nano piccolo dentro che giocava benissimo a scacchi e che faceva le mosse, ma le corti di tutta Europa adoravano questo turco invece meccanico che giocava e batteva tutti. Ripeto, c'era un trucco, però questo poi invece avverrà veramente con quello che dici tu, quando questa tecnologia, attraverso la matematizzazione della scienza, che è coeva a questo turco, ed è Cartesio in particolare, vede il mondo in termini matematici insieme anche a Galileo e a tutti gli altri, e questo ci consente di entrare in una dimensione scientifica. Il progresso, nel senso la velocità di trasformazione, è velocissima, perché in 400 anni, stiamo parlando del del XVII secolo, io faccio un esempio sempre, considerate che noi come Erectus abbiamo fatto una grande scoperta a un certo punto, più di 1,5 milioni di anni fa, le pietre levigate da un lato per tagliare. Per passare al bifacciale ci abbiamo messo 1,5 milioni di anni, perché ci venisse in mente di lavorarla e migliorare questa, perché è un processo, già questo però poi vede un incremento che è quasi geometrico. Quindi più allora, si va avanti, esattamente, più la distanza tra un avanzamento si raccorcia rapidissimamente. Quindi noi fino 1,5 milioni di anni, immaginate, per passare da un lato all'altro del bifacciale, mentre da una conoscenza che il telescopio di Galileo era lungo 35 centimetri e ingrandiva 23 volte quello che lui usa per vedere. Oggi abbiamo dei radiotelescopi immensi che ci fanno vedere i confini dell'universo a 14 miliardi di anni. Ecco, questa velocità ci ha portato già nell'Ottocento alla macchina di Babbage, che è una macchina meccanica elettrica per il calcolo, e poi ovviamente a un problema risolto dentro a un conflitto, perché i conflitti, che sono bruttissimi, le guerre sono orribili, però purtroppo, siccome nelle guerre ci siamo cacciati negli ultimi anni spesso per motivi che non sono dipendenti dai singoli ma da circostanze, però sono anche dei grandi laboratori di medicina, perché quando arrivano i feriti i medici, invece di averne uno alla settimana, ce ne hanno 40 al giorno e devono intervenire, imparano delle cose tecniche, e c'è stato infatti un progresso, e così tutto il resto. Ecco, uno dei problemi era che i tedeschi avevano Enigma, che era una macchina pazzesca, e bisognava sconfiggerla. Allora chiamano un gruppettino a Bletchley Park, dove dicono: dovete trovare la soluzione. Lì c'è Turing, che inventa una macchina, sostanzialmente il computer. Ma Turing, prima di fare questo, fa un disegnino, fa una partita a scacchi a mano. Lui, il primo algoritmo, senza sapere, 4 anni prima della sua invenzione e poi della realizzazione del computer, lui disegna un procedimento algoritmico, cioè fa fare a una macchina mentalmente quello che è la soluzione di una partita a scacchi. Quindi, con in mente il turco, con in mente quegli automi antichi, lui sa questo. Bisogna aspettare il 1996 per avere una macchina che si chiama Deep Blue, che batte vincerà Kasparov ancora la prima partita, il primo incontro, 4-2. Però la prima partita Kasparov perde contro Deep Blue. E che cos'è Deep Blue? È un macchinone enorme della IBM, che per lanciarsi, siamo appunto all'inizio degli anni 90, e far vedere che la IBM è potentissima, dice: tu, Kasparov era il campione del mondo, è stato il più giovane campione del mondo a 22 anni nella storia degli scacchi, è ritenuto uno degli scacchisti più forti di sempre da quando, dal 500, quindi da 500 anni esistono i modi per misurare la bravura di un giocatore, e quindi dicono vuoi giocare, lui accetta e poi si accorgerà che gli mettevano dei dati da una stanza lontana, quindi nella seconda partita poi lui perde, ma insomma si fermano perché aveva capito che c'era un problema, ma il dato è questo, quella macchina è la macchina che già avevamo visto operativa qualche anno prima in 2001 di Seno Spazio. Nel 68 esce un film e al 9000 a un certo punto gioca a scacchi e noi vediamo che Paul, che è l'altro giocatore che poi viene ucciso, rimane solo Bowman, noi vediamo che Paul gioca e mette un livello semplice, perché se mette a livello massimo Al lo batterebbe comunque. Oggi Kasparov, proprio in questi giorni, che ha pubblicato un libro due mesi fa su questo, ha detto una app qualunque di scacchi che sta sul vostro cellulare mi batte a me, al campione attuale, cioè, ma in due secondi, non abbiamo nessuna chance. Però fra l'altro questa cosa ci permette di dire che quella macchina che batté Kasparov in quegli anni era incosciente, sì, assolutamente, come anche quelle odierne. Esatto. Aveva un approccio brutale, cioè poteva fare un enorme numero di tentativi, di previsioni. Ma non imparava. E non imparava. Invece poi, infatti, quelle moderne gli insegnavano da lontano le reazioni a lui. Le macchine moderne, come forse ultimo passaggio della tua storia, imparano, ha detto invece Kasparov. Hanno anche il discorso dell'apprendimento, che gli consente di comprendere qualcosa che prima non è noto. Però comprendono solo. Si è staccata. Scusa, ci siamo? Ci sono? Scusate, abbiamo avuto un problema tecnico di microfoni. Dicevo, le macchine di oggi, come hai detto tu bene, apprendono il comportamento di chi sta giocando in questo caso, cioè il giocatore, ovviamente se è di livelli campione del mondo, perché non è necessario che, se tu, ammesso che tu sappia giocare a scacchi, giochi con una di queste macchine, ti batte senza prova neanche a prendere, inizia a fare una serie di mosse, capisci? Però ecco, quando usiamo il termine capisce, dobbiamo è una rete neurale, diciamo così, dentro la macchina che funziona e sì, diciamo che prende i dati, diciamo gli si danno in pasto una serie di input e la si istruisce. Però, su quali devono essere gli output, dopodiché dopo un tot numero di sequenze di insegnamento la macchina è in grado di riprodurre quell'output in qualche modo, va da sola, a noi non noto, cioè lo fa da sé, sì, produce sì. L'output che noi ci aspetteremmo. Però appunto, però anche questo, ovviamente, quello che tu mi chiedevi, che ci chiedevamo, era la questione della coscienza. Ecco. Questa è, infatti, è lì, allora, che l'intelligenza, dobbiamo fare un pausa tecnica. Sì, dai, lo facciamo subito dopo la pausa. Ah, perché, vai con la no, musica. Così almeno, certo. Adesso abbiamo fatto intelligenza. Ci prendiamo un po' di pausa, che abbiamo parlato un bel po', nonostante sia stato estremamente interessante, almeno così speriamo. Vai. E poi ci ritorniamo sulla coscienza subito dopo. Sì. Allora, ascoltiamoci un brano di Assalti Frontali con Roxana e Il Nano. Cancello aperto, puoi entrare. All'interno niente di istituzionale, due file di sedie a cerchio, pane tagliato. Una ragazza nigeriana entra, latta al suo neonato con la Coca-Cola. Avrà 16 anni, è rimasta sola, fugge via da tutto e chi previene i drammi. Io le dico con la coca non si fa e la saluto, ma lei vuole un aiuto da uno sconosciuto. Certo, resta qui, questo è uno spazio aperto. Sei in difficoltà, qui sarà il coperto. Il tetto è come voglio, qui nessuno guarda dentro al portafoglio. Per capire chi sei, da dove vieni, Lampedusa. Per te cantiamo una canzone su quell'isola, non resterai delusa, starai bene qui dentro. Ci abbiamo messo un po' per costruire questo nostro centro. La nostra umanità non sarà schiacciata da tutta la meschinità, la nostra umanità non sarà schiacciata. Che viva il rap pirata, qui c'è tanto lavoro nel weekend, ma anche il lunedì la vita può cambiare meglio. Da così a così, la vita può cambiare meglio. Da così a così, prima impari a difenderti e meglio è. Ma è inutile che dica questa cosa proprio a te. Lo so come ti senti, anch'io l'ho provato. Quando sei scansato e per riprendere fiato, le parole dividono, servono azioni. Bella resistenza, belle liberazioni. Ora dammi la valigia, la vedo un po' pesante. Avrai viaggiato ed è lontana la tua terra nell'Atlante. Tra un po' qui sarà pieno di persone. La vita può cambiare meglio e tu sei una motivazione. Noi abbiamo aperto un parco, una palestra popolare, un consultorio. Governeremo insieme questo territorio. Prima era pieno di angherie, di porcherie, ma noi lamiamo le periferie. Inizia un corso di italiano in giardino. Anche il tuo piccolo avrà una scuola, ne conosco una bella qua vicino. La nostra umanità non sarà schiacciata da tutta la meschinità, la nostra umanità non sarà schiacciata. Che viva il rap pirata, qui c'è tanto lavoro nel weekend, ma anche il lunedì la vita può cambiare meglio. Da così a così, la vita può cambiare meglio. Da così a così, fratello, sorella, questo è un mondo strano, ma il prenderci per mano ci porterà lontano. Oltre tutte le sfide ancora da superare, lunghe come tratti fatti di sogni e di mare. A dispetto dei colpi che la vita ti ha inferto, sai che troverai il nostro spazio aperto istantaneo, con un sorriso spontaneo da una sponda all'altra del Mediterraneo. Questo mi scalda l'animo quando siamo insieme, mentre guardiamo l'alba liberi dalle catene, cantando controvento. La libertà è tutto e il tempo darà ragione a chi la mette a frutto. Nutro fiducia e so non è mai abbastanza. Ho aperto la mente, ho aperto la mia stanza. Mantieni i sogni in volo, piedi attaccati al suolo. Qui c'è uno spazio aperto dove non sarai mai solo. La nostra umanità non sarà schiacciata da tutta la meschinità, la nostra umanità non sarà schiacciata. Che viva il rap pirata, qui c'è tanto lavoro nel weekend, ma anche il lunedì la vita può cambiare meglio. Da così a così, la vita può cambiare meglio. Da così a così. Ed eccoci allora di nuovo in diretta. La nostra umanità non può essere schiacciata, ci diceva Miri Tantà. Allora riprendiamo il nostro discorso sull'intelligenza e la coscienza. Dunque, dicevamo, allora, la nostra intelligenza abbiamo visto che è speciale. Ma perché è speciale? Perché abbiamo detto, camminando ci siamo liberati le mani, liberandoci le mani abbiamo relazionato il nostro corpo, che è l'interfaccia del nostro cervello, con l'ambiente. La grande scoperta è stata il fuoco, che ha liberato un altro elemento importante di fatica, perché cuocendo, all'inizio abbiamo trovato della roba arrostita, magari dopo un incendio qualcuno ha mangiato una carogna bella cotta, ha detto però è buono questo barbecue un po' casuale, e quindi gli Erectus hanno cominciato ad adottare questa strategia. Questo in un milione di anni è stato importante, perché l'energia liberata dalla digestione è andata al cervello, e quindi il secondo passaggio dal bipedismo alla liberazione delle mani è il fuoco. Questo ci ha modificato enormemente, ha modificato enormemente il nostro rapporto con l'ambiente, e lì abbiamo cominciato a modificare proprio l'ambiente, e utensili non come fanno molti animali, che utilizzano degli utensili primari. Ci sono delle scimmie che mettono dei bastoncini e succhiano le termiti, ci sono immagini di oranghi che usano un bastone per pescare, però sono utensili primari. I castori anche. I castori utilizzano, fanno le dighe. Le dighe sono, usano col legno per costruire, però diciamo abbiamo dei casi incredibili apparentemente, perché tutti pensano che un corvo nero, insomma, un uccello, cioè, come fa a essere intelligente? Eppure ci sono dei corvi che in un incrocio molto lontano in Asia sono stati osservati, vanno a un incrocio con le noci, le fanno cadere all'incrocio quando è verde, aspettano che, quando è rosso, aspettano che con il verde le macchine passino, schiacciano le noci, quando è rosso passano i pedoni, loro scendono, si prendono la noce e ritornano e fanno questa operazione. Quello è un apprendimento, perché il semaforo non è naturale, quindi hanno capito che si fa questa cosa che altri fanno in un altro modo. Gli avvoltoi prendono le ossa, le lanciano da 3000 metri, quelle si rompono e si pigliano il midollo. Quindi tutti sono intelligenti, noi però abbiamo sviluppato questa nostra particolarità, il nostro cervello a un certo punto ha elaborato il linguaggio. Questo linguaggio, dopo il percorso che ho detto prima, finisce dentro a delle macchine. Quando Turing costruisce quello che chiamiamo un algoritmo, cioè scrive come far fare a una procedura meccanica una partita a scacchi, poi ha bisogno di una macchina che lui ha appena immaginato, ma non esiste ancora. Purtroppo era omosessuale, non lui, purtroppo nell'Inghilterra che perseguitava gli omosessuali, e quindi lui finisce malissimo, si uccide, poverino. E l'Inghilterra fa un errore orribile, proprio perché mette quest'uomo geniale nelle condizioni di non essere più operativo, e questi computer li faranno gli americani nel 51-52, quando vengono proposti i primissimi grandi computer. Quindi qui inizia a pensare la nostra conoscenza a quella che chiamiamo intelligenza artificiale, cioè macchine che sono capaci di mimare il nostro, alcuni aspetti del nostro modo di ragionare, di essere appunto intelligenti. Ecco, mimare è un'altra parola chiave. Che è una parola chiave, perché noi, la macchina non. Qual è il fattore fondamentale per parlare di coscienza? Noi non sappiamo cos'è la coscienza allo stato attuale, cioè abbiamo delle idee, perché capire cos'è la coscienza significa la totale comprensione di noi stessi. Mi rifaccio sempre un po' a 2001, perché forse lo conoscono tutti, ormai è un film che ha celebrato due anni fa, no, l'anno scorso, i 50 anni, quindi è molto noto. Beh, noi abbiamo coscienza di noi, e nel film, il famoso finale che è un po' oscuro, no? L'astronauta, dopo il balzo finale, che è il sopravvissuto Bowman, finisce in questa strana stanza d'albergo, sembra, insomma, tutta illuminata, bianca, dove vede se stesso, che invecchia e muore. Però poi c'è un'altra forma di vita, che è il feto cosmico. Quindi quella conoscenza, lì viene immaginata la ultima conoscenza. E qual è l'ultima conoscenza? È che cos'è la morte, e perché così si sa cos'è la vita. Bene, quella metafora, quella rappresentazione di conoscenza legata alla dimensione nicciana dell'eterno ritorno, in realtà è appunto il livello ultimo della nostra conoscenza, cioè la autoconoscenza, quello che noi stiamo facendo da quando abbiamo cominciato a pensare in un modo diverso dai nostri altri cugini primati, molto più articolato per via del linguaggio, che ci ha portato a descrivere il mondo, a cambiarlo e quindi a conoscerlo. Significa sostanzialmente non solo conoscere come è fatto l'universo intorno a noi, ma il capire come funziona l'universo ha portato già da subito i greci, che sono gli inventori di questo metodo, perché la filosofia occidentale è l'unica che ha sviluppato questo tipo di speculazione autoriflessiva, a capire in fondo che cos'è il cervello, il nostro, diciamo, apparato che è nella testa, che funziona e di che cosa è fatto. E quindi che cos'è la coscienza? Ricordiamoci che nel uno dei grandi dibattiti della modernità, quando la modernità era appena stava sbocciando, cioè tra Erasmo e Lutero, era sul libero arbitrio, cioè sulla capacità che abbiamo di decidere, cioè la libertà che Dio, lì si parlava di Dio come creatore, ci aveva dato in autonomia. Erasmo dice, accusa Lutero che il suo sistema teologico era, dice, il tuo è un deservo arbitrio, cioè non è libero, e quindi c'è questo conflitto. Loro non possono risolverlo al di fuori della dimensione teologica, perché presumono una creazione. Anche Cartesio, che è un po' più avanzato di Lutero e di Erasmo, perché non è un teologo ma uno scienziato e un matematico soprattutto, però anche lui deve tenere dentro il cristianesimo, perché non è ateo a Cartesio, e neanche Galilei. Per loro Dio è un po' diverso da quello di Erasmo e di Lutero, ma e comunque c'è ancora. E allora Lutero si inventa questa, scusatemi, Carteso si inventa il doppio livello, rex cogitans, rex extensa, cioè due dimensioni che sono incorporate all'interno di un meccanismo che è ancora quello, diciamo, aristotelico del motore immobile, cioè dell'origine. Pure il povero Aristotele non parla di Dio, parla di qualcosa che è da movimento al movimento, al divenire. Viene usato, violentato dai teologi perché gli si mette a quel motore immobile il vecchio barbuto della Sistina, ma non c'entra niente. Quindi loro allontanano. Sarà Spinoza, ovviamente, che a un certo punto arriva a una conclusione radicale: Dio sive natura, cioè casomai Dio è la natura stessa. Quindi un panteismo, un immanentismo talmente feroce per i credenti dell'epoca che lui si becca la scomunica dai riformati luterani, i cattolici e gli ebrei. Lo cercano in tutta Europa, ma lui è nascosto a farsi i suoi affari privatamente. Era un omino emaciato, giovane, e lavorava alle lenti, era un ottico, e scrive questi libri. La frase che ho detto, Dio sive natura, che è celebre, questa secca affermazione, è nell'Etica, che è il suo capolavoro. Siamo appunto alla metà del XVII secolo, quando contemporaneamente ci sono autori come Locke, che saggio sull'intelletto umano, cerca di capire come diavolo ragioniamo, poi Hume, i maestri di Kant, e Kant si domanderà che cosa significa conoscere. Tutto questo cammino confluisce, è il linguaggio, siamo talmente padroni del linguaggio, cioè del descrivere il mondo, che descriviamo come può funzionare quello che è la nostra testa. È un livello di autoriflessione, e quindi la coscienza oggi non sarà altro, quando capiremo, non so quando, che cosa veramente siamo. Il sospetto che noi abbiamo è che, allora, abbiamo escluso una cosa, l'anima. Non c'è niente che viene da fuori nel nostro corpo, quindi non c'è una trascendenza della coscienza, perché altrimenti è un'emanazione di Dio. E siccome Dio, in termini scientifici, non lo possiamo usare perché è una variabile problematica, molto problematica, non la dobbiamo considerare. Tutto quello che io ho detto e che dirò, e tutto quello che dice la scienza, che è conoscenza, non, la scienza è come oggi, al punto tutto. In cui oggi è arrivata. Esattamente, la scienza è il telefono che avete in tasca, ma anche il fatto che se vi rompete una gamba oggi non zoppicate più, mentre 500 anni fa li avevate condannati a essere storpi, a mendicare a 20 anni. Quindi, a meno che non vi frantumate in mille pezzi, ma oggi fanno miracoli. Parlavamo della mano, ci sono chirurghi che se ti triti una mano te la ricostruiscono e puoi pure continuare a suonare. Certo, magari non da prima del violino della Scala, ma ricostruiamo tutto. Prima perdere un dito significava la morte civile, fino a un secolo fa. Per dire, quindi questa è comunque scienza della nostra conoscenza, come siamo fatti. Anche lo stesso cervello, fino a non troppo tempo fa, il cervello non era mica il cervello come lo conosciamo noi. Per esempio, che ci fosse dell'elettricità, ce lo dice Galvani, ma nel 1790. E anzi, Galvani, che mette dell'elettricità, delle zampette della rana, dà vita a Mary Shelley, perché quella roba lì, lui crede, in particolare suo nipote, perché lui poi muore nel 99, suo nipote crede di fare degli spettacoli, va in giro, a un certo punto in Inghilterra si fa dare un cadavere di uno che aveva ammazzato la moglie e il figlio, vedi, già c'era tutto nelle società moderne, quello era un femminicidio classico, diciamo, impiccato, e lo prende, gli mette l'elettricità davanti a un pubblico esterrefatto, questo apre gli occhi, si muove, e credono che si possa ridare la vita con l'elettricità. Bene, capire che il sistema nervoso, mentre volta, sta facendo la pila, e la presenta proprio nel 1800, significa che qualcosa che è cambiato. Il cervello prima era ritenuto uno scambiatore termico, come una specie di radiatore del sangue, perché si credeva che la ragione e i sentimenti fossero il cuore e lo stomaco, l'intestino, in una visione arcaica. Il cervello quindi comincia a essere studiato per com'è questa macchina che funziona elettrochimicamente dal XVIII secolo in poi. Nel XIX, infatti, abbiamo i primi passi di quella che chiamiamo, che è l'attuale psichiatria, cioè il capire come la mente non funziona più in certe situazioni, e le persone che così, il cosiddetto malato di mente, il pazzo, il matto, come dice anche la canzone di De André, chi è? Questa è una domanda che si sono posti tutti, non solo nella nostra cultura, e le risposte sono diverse. nell'Ottocento la frenologia, Charcot, che è uno dei padri, ma ci sono tanti personaggi, provano a dare delle risposte. Oggi sembrano anche un po' assurde e alcune anche inquietanti, ma perché c'era una visione che produrrà anche l'ombroso, il quale poverino viene maltrattato, ma non è che era cattivo, lui prova a pensare che il corpo agisse anche sul volto, cioè l'essenza del nostro essere prendesse forma il nostro volto. E noi abbiamo visto che delle persone bionde bellissime con gli occhi azzurri possono anche sterminare alcune milioni di persone, quindi non era comunque, c'è l'idea che la coscienza possa informare esatto, il corpo, la carne esattamente la fisionomica, infatti è antichissima. Quindi tutto questo percorso sulla nostra mente arriva oggi a dire che la nostra coscienza sicuramente è endogena, cioè noi nasciamo con dei presupposti che a un certo punto si attivano e che quindi è qualcosa di elettrochimico dentro il nostro cervello. La chimica del cervello e la fisica del cervello fatta di elettricità e chimica, io non entro nel merito perché io sono un povero antropologo e non un neurologo, e quindi io sono, diciamo, mi servo, così come i neurologi leggono noi antropologi. Sì, ma infatti e io leggo quello che tutto quello che siamo neurologi, perché non è una scienza difficilissima e molto specialistica. Però si vede da questa nostra chiacchierata come le scienze fra di loro sono legate totalmente. E quindi non c'è più nessuna separazione. E quindi riusciamo a ragionare su intelligenza artificiale prendendola dal punto di vista antropologico e la cosa ci chiarisce anche. No, ma soprattutto dal punto di vista antropologico, perché l'uomo alla fine, come essere umano, dico, la specie uomo in questo senso è immerso nella scienza, cioè nel mondo che noi conosciamo, quella naturale, perché noi siamo un'entità biologica come un